mia ricerca sulla polizia, le politiche per la sicurezza risale, diciamo, a molti anni addietro, all'origine anche del mio percorso di ricercatore. La mia tesi di dottorato, che è anche il mio primo libro, Genealogia della pubblica sicurezza, era appunto una ricostruzione storico-teorica del potere di polizia. Negli ultimi anni così sentivo l'esigenza di lavorare alla polizia italiana, alle politiche per la sicurezza in Italia, di confrontarmi anche con la letteratura sociologica più recente, no? Che si era dedicata all'analisi e allo studio delle forze di polizia. Quindi, diciamo, questo libro è l'inizio di un percorso di ricerca che nei prossimi anni dovrebbe vedermi impegnato un po' più anche nello specifico su, chiamiamola così, una sociologia della polizia italiana in età repubblicana, ecco, dal dopoguerra ad oggi. Quindi, da un certo punto di vista, questo libro pone un po' le basi, le fondamenta teoriche del lavoro che ho in mente di fare sulla polizia italiana. Ecco, diciamo che queste basi all'interno del saggio le dividi un po' in quattro capitoli, no? Quali sono queste tappe? Voglia di raccontarcele? Allora, il libro sì, è organizzato, come dici tu, in quattro capitoli. Essenzialmente il primo capitolo, che è poi quello che dà titolo, che è un titolo così provocatorio, magari anche un po' accattivante, che diciamo il cui obiettivo era quello di stuzzicare così la curiosità del lettore. Il primo capitolo vuole rispondere alla domanda più generica, no? Su che cos'è la polizia. In fondo la polizia è una tra le tante istituzioni di controllo sociale, probabilmente quella che dal punto di vista della prevenzione, della devianza, non è neanche quella che è più efficace, no? Che ha il ruolo principale, perché sono tantissime altre le istituzioni a cui dobbiamo, diciamo, il controllo del comportamento deviante all'interno delle nostre società. E quindi domandarsi che cos'è, cosa distingue la polizia dalle altre istituzioni di controllo sociale, era la domanda di partenza. Quindi identificare i caratteri fondamentali del potere polizia, delle funzioni della polizia. Il secondo capitolo è un po' più dedicato alla storia dell'istituzione polizia, perché appunto se le funzioni di controllo che sono attribuite anche alla polizia sono antichissime, sono forse un universale sociale, nel senso che tutte le società sono dotate di meccanismi di controllo del comportamento sociale, solo le società moderne e quindi all'ombra dello Stato moderno, dapprima nei paesi occidentali e poi nel resto del mondo, ci siamo dotati di istituzioni specifiche, no? Che noi chiamiamo appunto polizia. Quindi il secondo capitolo è dedicato un po' così alla storia istituzionale della polizia e ritracciare quali sono i paradigmi istituzionali classici della polizia moderna e come si sono evoluti nel corso del tempo. Il terzo capitolo invece è dedicato alla cultura professionale degli agenti di polizia. Gli agenti di polizia sono una categoria professionale specifica, sono una categoria di funzionari pubblici, una categoria molto importante, e come tutte le categorie professionali hanno la loro cultura, la loro cultura professionale. Questo è un tema molto poco affrontato nel dibattito italiano, si è studiato, si è scritto, si pubblica poco su questo tema, quindi ci tengo molto a questo capitolo del libro, perché un po' rappresenta un'introduzione al lettore italiano, no? Alla tematica della cultura professionale degli agenti di polizia. E infine un altro tema importantissimo, lo abbiamo visto con le cronache delle ultime settimane, il tema della cosiddetta accountability, cioè della responsabilità delle forze di polizia per la cattiva condotta degli agenti, no? Quindi il tema del controllo democratico, del controllo politico, del controllo giudiziario sull'azione delle forze di polizia. Ecco, l'hai citato anche tu adesso, no? Le ultime cronache anche qui a Bologna, come commenteresti, diciamo così, gli ultimi fatti di cronaca che riguardano appunto la violenza da parte di forze dell'ordine, ecco, anche di persone minorenni, come abbiamo visto a Pisa, ma insomma anche qui a Bologna da poco nei confronti degli universitari, ecco. È sempre difficile commentare, certo, a caldo episodi che non riguardano la gestione dell'ordine pubblico, la gestione delle manifestazioni. Quello che mi sembra di poter dire, ma non sono certo l'unico a pensarla così, è come se attraversassimo una fase in cui il modello di gestione delle manifestazioni situazione dell'ordine pubblico è un po' in crisi, no? È come se i dirigenti, i responsabili non avessero dei parametri certi a cui rifarsi, e quindi mi pare di vedere anche un po' di improvvisazione. Se ci sono delle responsabilità politiche, cioè se gli esiti, no, delle manifestazioni di piazza, e quindi gli esiti anche magari un po' più violenti, no, nella gestione di queste manifestazioni, discendono da un disegno politico più muscolare, questo non saprei, nel senso bisognerebbe avere a disposizione dati maggiori, probabilmente mi verrebbe dire, da studioso, per sostenere una tesi di questo tipo. Molto lascia pensare che in un certo senso ci sia una impronta politica più muscolare, no, nella gestione della piazza, o perlomeno la percezione nelle figure dirigenziali di avere mano un po' più libera, no? Questo, come dire, è l'impressione che un osservatore si fa, no, delle vicende. Poi naturalmente le istituzioni tendono, no, come dire, a personalizzare le responsabilità. Se qualcosa va storto, le responsabilità vengono poi ascritte al singolo dirigente responsabile del servizio, eccetera. Però corre sempre da domandarsi come le decisioni che vengono prese, no, nella gestione della piazza, come l'impostazione del servizio nel suo complesso, poi subisca l'influenza del clima politico più generale. Bene, Giuseppe, io ti ringrazio, ti chiedo anche se passerai qui per Bologna a presentare il libro. Sì, dovrebbe essere confermata una presentazione del libro a Bologna il prossimo 10 aprile, serata al punto Input, che credo sia in via Mascarella, ma non vorrei dare un'informazione sbagliata. Bene, Giuseppe, grazie mille, allora ti aspettiamo qua a Bologna, appunto, come dicevi tu, al punto Input di via Mascarella. D'accordo, grazie a voi.